Le 13:01. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Razzi dal Libano su Israele, almeno 5 feriti e l'artiglieria dello Stato ebraico risponde. I caschi blu, fra cui 2.500 italiani in stato d'allerta. Malpensa, il giorno del chiarimento fra Bossi e Berlusconi. Intanto protesta a Fiumicino, il personale delle pulizie a bordo, problemi sui voli. Cresce la disoccupazione in Europa, arriva al 7,8%, fiducia di imprese e consumatori ai minimi da 24 anni. Bloccato oltre i 6.000 metri un gruppo di alpinisti italiani sulle Ande, erano in 4, uno di loro è morto. Nessuna ghiacciata. E al nord si circola quasi regolarmente, ma è ancora polemica sulla gestione della nevicata a Milano. Il sale è stato ordinato troppo tardi. La guerra del gas. Mosca e Kiev stanno trattando. I vertici delle aziende ucraina e russa si incontrano a Bruxelles. Scajola dice: Mosca onori i contratti. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. Benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo andando in Medio Oriente, ma su un altro fronte, non quello di Gaza. Non quello di Gaza, infatti, perché sembra aprirsi un altro fronte in questa nuova guerra in Medio Oriente, il fronte con il Libano, quindi siamo al confine nord di Israele. Questo perché questa mattina c'è stato un lancio di razzi da questa zona nel territorio dello Stato ebraico. Sentiamo quel che è accaduto dal colonnello Giovanni Martina della missione UNIFIL in Libano, intervistato da Cristina Carpinelli. UNIFIL può confermare che almeno 3 razzi sono stati sparati su Israele dall'area generica di Tair Arfa, che è a circa 7 km a est di Naqoura, nel sud del Libano. E a seguito di un meccanismo di risposta immediata, le forze armate libanesi hanno risposto a fuoco con alcuni colpi di artiglieria diretti nel luogo da dove i razzi sono stati lanciati. UNIFIL ha preso misure immediate per identificare gli esecutori dell'attacco. Non è stata rivendicata la paternità, la responsabilità per questo atto finora. Le forze armate libanesi hanno anche loro, a loro volta, deciso di schierare ulteriori unità nel sud. Ho incrementato le attività operative, le pattuglie, ma già dal giorno di Natale, quando erano stati scoperti i primi 8 razzi che erano stati scoperti e distrutti dalle forze armate libanesi. Già da allora c'era stato un incremento di attività operative. Stato allerta, noi non abbiamo mutato niente, abbiamo aumentato le nostre attività operative per far fronte chiaramente alla situazione, ma abbiamo già in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare gli avvenimenti. È chiaro che reagiamo alla contingenza, ma comunque non c'è nessun allarmismo. Avete dunque sentito, nessuna rivendicazione per i razzi lanciati dal sud del Libano, la zona dove, lo ricordiamo, in genere operano gli Hezbollah. Del resto lo stesso governo israeliano, come quello libanese e come il nostro ministro degli esteri Frattini, hanno detto non è stata opera di Hezbollah. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore in Israele, se non è colpa di Hezbollah, chi può aver lanciato questi razzi e in che modo si può aprire un fronte libanese della crisi, se si può aprire, come già accade nel 2006? Ugo. Tanto pensando alle famiglie dei 2.500 soldati che abbiamo a Tibline, a sud del Libano, bisogna ricordare e ribadire che il capitano ha ragione, non bisogna fare allarmismi, non si sta aprendo un nuovo fronte nord tra Israele e Libano. Si sa anche più o meno chi è stato il responsabile, probabilmente, quasi sicuramente, come al solito in questi casi, è il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, comando generale, quella guidata da Ahmed Jibril, che è sopravvissuto, un vecchio leader imbrossito, sopravvissuto a se stesso, anche piuttosto corrotto. Diciamo che sono stati più ispirati che guidati da Hezbollah in questo tentativo, un po' come assaggiare il terreno per vedere la reazione israeliana. Certamente la tensione rimane alta, israeliani e Hezbollah non hanno un conto aperto dalla guerra nel Libano dell'estate 2 anni e mezzo fa, ma nessuno dei due ha interesse per un nuovo fronte per il momento. Per quanto riguarda invece il conflitto che si sta svolgendo con Gaza, ci sono dei passi avanti per quanto riguarda la diplomazia? No, come ieri sembrava che ci fossero dei passi avanti della diplomazia rispetto al conflitto, così oggi siamo tornati alla consueta normalità di 13 giorni di guerra in cui è il conflitto che prevale sulla diplomazia, anzi dalla diplomazia oggi sono perse un po' le tracce dopo i fallimenti del tentativo di creare una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non sappiamo più che fine abbia fatto il documento franco-egiziano che ieri ci aveva riempiti di speranza. Sappiamo invece che comunque l'offensiva israeliana continua, in qualche modo è già iniziato un po' la fase 3, quella definitiva, nel senso che gli israeliani stanno cercando di andare a occupare il sud della striscia di Gaza, ma ancora devono decidere se entrare poi, come prevede la fase 3, a combattere anche nelle città casa per casa, chiamando anche tutti i riservisti peraltro già mobilitati. Grazie dunque anche per oggi, Ugo Tramballi. Nel frattempo arriva una dichiarazione del nostro ministro degli esteri Franco Frattini, che dice che i razzi lanciati dal Libano sono un fatto grave, e si augura Frattini che questo non conduca a rappresaglie da parte di Israele. Conferma tra l'altro che a sua opinione si tratta di razzi che certamente non sono stati sparati da Hezbollah. E c'è un'ultima ora che riguarda l'economia della Gran Bretagna. Una notizia attesa: la Banca d'Inghilterra ha tagliato il tasso di riferimento di 0,5 punto percentuale, si passa così dal 2% all'1,5%, portandolo così al minimo storico. E continuiamo a parlare in qualche modo di economia, ma economia che si incrocia con la politica, ossia la vicenda di Alitalia. Tra poco a Roma, Palazzo Grazioli, l'incontro tra Berlusconi e Bossi, un tentativo di chiarimento dopo il dibattito aperto sul futuro di Malpensa. Ieri, ne abbiamo già parlato, il governo ha di fatto dato l'ok ad Air France, suscitando così le ire della Lega, visto che l'alleanza con la compagnia francese porterà a privilegiare come hub Fiumicino a scapito di Malpensa. Vincenzo Miglietta, che ti trovi a Palazzo Grazioli, quali sono gli aggiornamenti? Sì, buongiorno. Alla colazione di lavoro saranno presenti tra gli altri il sindaco di Milano Letizia Moratti e i vertici della nuova Alitalia. Sarà un momento di chiarimento tra il premier Berlusconi e il leader Lega Bossi dopo quello che sembra ormai una scelta fatta dalla cordata italiana, ossia l'alleanza con Air France. I dettagli della partnership sono stati illustrati ieri a Berlusconi da Polanin e Sabelli. Il premier non avrebbe fatto obiezione all'intesa, anche perché, lo ha spiegato più tardi lo stesso presidente del Consiglio, l'altro gigante dei cieli, la tedesca Lufthansa, non ha mai fatto una proposta concreta. In virtù di questo scenario, la Lega, ma anche il governo nel suo insieme, forte dell'appoggio degli amministratori locali, puntano ora a permettere comunque a Malpensa di raggiungere un'adeguata competitività come hub. È necessario che ci siano gli slot sufficienti, ha ricordato ieri Bossi. Anche Alitalia ed Air France si sarebbero impegnate in senso più tardi. Gli sviluppi dell'incontro, da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, allora eventualmente ci risentiremo più tardi. Oggi del resto a Malpensa si sta svolgendo il cosiddetto Malpensa Day, un'iniziativa lanciata dal presidente della provincia di Milano, Filippo Penati. Giovanni Capuano, tu sei a Malpensa, che cosa sta succedendo e che obiettivo ha questa manifestazione? Beh, intanto a Malpensa si attendono anche le notizie che arrivano da Roma, seppure con la scarsa fiducia e pur con qualche defezione importante, ad esempio il Comune di Milano e il Comune di Varese su tutti, ma complessivamente in un clima bipartisan, presidenti delle province, della zona, sindaci, rappresentanti delle camere di commercio, dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali stanno cercando di fare il punto sulle tante incognite del futuro di Malpensa. Uno scalo è scritto nel documento che verrà prodotto dal Malpensa Day, che rischia di subire dal ridimensionamento perdite per 2 miliardi di euro per l'economia lombarda nel solo 2009, oltre a perdite di posti di lavoro che alcune stime posizionano a 56.000 unità complessivamente, compreso l'indotto, nei prossimi 8 anni. Come avete anticipato, al centro dei lavori il presidente della provincia di Milano, Filippo Penati, che ha convocato tutte le parti interessate a questi tavoli di confronto che proseguiranno sino al pomeriggio. Ecco però le parole di Filippo Penati in una pausa tra alcuni dei diversi incontri. Qui si gioca un pezzo di PIL importante del nostro paese. Non è possibile che le scelte vengano fatte per proteggere il piccolo monopolista che è CAI. La nuova Alitalia faccia le sue scelte e questo territorio sia libero di poter scegliere le compagnie aeree, di far arrivare qui le compagnie aeree, gli aerei qui possano decollare, ripartire e atterrare, collegando Milano, la Lombardia, il nord del paese a tutto il resto del mondo. Ecco, a Berlusconi, Filippo Penati e tutti i suoi interlocutori chiedono risposte certe e immediate dal Malpensa Day. Come detto, uscirà un documento che sarà firmato da tutti, istituzioni e operatori locali, un ordine del giorno per chiedere al governo la piena liberalizzazione dei diritti di volo di Malpensa, l'immediata revisione degli accordi bilaterali, la conferma degli impegni per il completamento delle infrastrutture e soprattutto lo stanziamento di ammortizzatori sociali anche per i precari. Una partita questa importante, basti pensare che nei prossimi giorni, subito, nell'immediato, ci sono a rischio 2.000 posti di lavoro se CAI dovesse decidere di non rinnovare gli accordi con SEA per la movimentazione a terra qui a Malpensa. Vi restituisco la linea se non avete domande. Grazie Giovanni Capuano da Malpensa, ma se a Malpensa si svolge appunto questa protesta del Malpensa Day, a Fiumicino ci sono degli intoppi, Simone. Sì, se Atene piange Sparta non ride, viene da dire, perché a Fiumicino c'è stata una protesta dei lavoratori di Alitalia Servizi Airport, quelli che si occupano del servizio pulizie di bordo e carico scarico bagagli. Protesta perché hanno paura di una esternalizzazione, ossia che questi servizi vengano affidati di fatto ad un'altra azienda. Bene, ci sono voli internazionali e nazionali cancellati, altri ritardati, bagagli accumulati e naturalmente la furia, la rabbia dei passeggeri. 5 giorni dopo il parto e già al lavoro. Parliamo del ministro della giustizia francese Rachida Dati. Ma che messaggio trasmette questo modo di comportarsi? Del resto le foto della Dati hanno fatto il giro del mondo nelle ultime ore. Il commento di Maria Piera Cici. Sorride Rachida Dati, lei la Wonder Woman di Francia. Donna, giovane, di origini maghrebine, il ministro della giustizia non ha voluto deludere il suo presidente neanche in questa occasione. E a soli 5 giorni dal parto si è presentata al primo consiglio dei ministri dell'anno nel suo bel abitino nero attillato, tacchi a spillo, pettinatura perfetta e faldoni sotto il braccio. Come se nulla fosse. E così tutti a farle i complimenti. Ma che brava, che coraggiosa, una donna con i cosiddetti IC puntini puntini. Ed è proprio qui il punto. Lei IC puntini puntini non ce l'ha perché è una donna. E allora ve lo racconto io che cosa c'è con ogni probabilità dietro quel sorriso della Dati a 5 giorni dal parto. Ci sono dei punti che tirano là dove non batte il sole o sulla pancia se hai fatto il cesareo, dei seni che fanno male, una tempesta ormonale che ti fa venire voglia di piangere ogni 5 minuti e una testa che tutto è tranne che concentrata sul lavoro. Ma la Dati questo non lo può dire ai suoi colleghi di governo, per carità. Come non poteva dire qualche mese fa ai suoi colleghi di governo, il ministro della difesa spagnolo Carme Chacón, che forse avrebbe preferito restarsene a Madrid con il suo pancione al 7° mese, anziché farsi 9 ore di aereo per visitare le truppe in Afghanistan con tanto di ginecologo al seguito in caso di parto prematuro. No, questa non è l'emancipazione che sognavamo. È forse quella che sogna ogni datore di lavoro che, leggendo oggi i giornali, un pensierino l'avrà fatto sulle proprie dipendenti che se ne stanno a casa in maternità per mesi, queste mollaccione. Mollaccione che ce l'avranno pure un compagno che le aiuta a cambiare qualche pannolino, a differenza della Dati che non ha mai voluto rivelare il nome del padre di sua figlia, trasformandosi nella regina dei giornali popolari, ma che magari non hanno lo stipendio della signora ministro e di conseguenza anche tutte le babysitter che servono per farla arrivare puntuale e sorridente al suo consiglio dei ministri. Parliamo di libri. Adesso, per i fan del giallista svedese Stieg Larsson, ha iniziato il conto alla rovescia. Domani uscirà nelle librerie italiane l'ultimo volume della trilogia Millennium. Si intitola La regina dei castelli di carta, pubblicato in Italia da Marsilio, arriva dopo Uomini che odiano le donne e La ragazza che giocava con il fuoco. Tutti e tre sono stati pubblicati postumi dopo l'improvvisa morte di Larsson nel 2004 a 50 anni per un infarto. Anche nell'ultimo romanzo, un tomo da ben 860 pagine come tutti quelli di Larsson, i protagonisti sono Mikael Blomskitt e Lisbeth Salander, sopravvissuta miracolosamente ad una pallottola nel cervello. E allora, per tutti gli appassionati dei polizieschi di Larsson, in anteprima l'incipit di La regina dei castelli di carta. Si calcola che circa 600 donne prestarono servizio nella guerra civile americana. Si erano arruolate travestendosi da uomo. A riguardo, Hollywood si è lasciata sfuggire un pezzo di storia della civiltà, o forse l'argomento è troppo spinoso sul piano ideologico. Difficilmente i libri di storia si occupano di donne che non rispettano i confini sessuali, soprattutto in tema di guerra e uso delle armi. Dall'antichità fino all'epoca moderna si sono tuttavia conservati numerosi racconti di donne guerriere, le Amazzoni. Gli esempi più noti trovano posto nei libri di storia perché le donne vi compaiono come regine, ovvero rappresentanti della classe dominante. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Anche oggi Israele sospenderà i bombardamenti sulla striscia di Gaza per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari, ma la tensione sembra spostarsi al confine col Libano, da dove stamattina è partito il lancio di razzi su Israele. Sentiamo il colonnello Giovanni Martina della missione UNIFIL. UNIFIL può confermare che almeno 3 razzi sono stati sparati su Israele. Non è stata rivendicata la paternità, la responsabilità per questo atto finora. Abbiamo aumentato le nostre attività operative per far fronte chiaramente alla situazione, ma abbiamo già in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare gli avvenimenti. È chiaro che reagiamo alla contingenza, ma comunque non c'è nessun allarmismo. L'opzione militare non è una soluzione, la violenza, da qualunque parte essa provenga, va condannata, ha detto intanto il Papa. Eurolandia è in recessione, secondo Eurostat anche nel terzo trimestre del 2008 il PIL dei 15 paesi dell'euro ha registrato un calo dello 0,2% e a novembre 2008 il tasso di disoccupazione di Eurolandia è salito al 7,8% su base mensile, dati negativi anche per la fiducia di imprese e consumatori ai minimi dall'85. Un alpinista italiano è morto, altri 3 sono bloccati da una tempesta sulla Concagua, la più alta delle vette del Sud America, con una temperatura che raggiunge i 20 gradi sotto zero. All'Italia oggi protesta a Fiumicino dei lavoratori delle pulizie di bordo che temono per il posto di lavoro, ci sono voli cancellati. Sull'altro fronte, quello del futuro di Malpensa, incontro fra Bossi e Berlusconi, mentre è in corso il Malpensa Day organizzato da provincia e sindacati. Lufthansa ha confermato di non aver fatto alcuna offerta per una quota della compagnia, che quindi domani dovrebbe firmare con Air France KLM. La guerra del gas, Mosca e Kiev stanno trattando e oggi pomeriggio i vertici della Gazprom, la compagnia russa di Naftogaz, quella ucraina, si incontreranno a Bruxelles. Abbiamo dei contratti, dice il ministro dello sviluppo economico Scajola, e Mosca li deve rispettare. La questione delle forniture di gas dalla Russia, oggi una riunione al Ministero dello Sviluppo Economico. Sentiamo com'è andata. Il ministro Scajola interviene per tranquillizzare famiglie e imprese sulle possibili conseguenze della guerra del gas fra Russia e Ucraina. La situazione è delicata, ma non c'è nessun allarme per l'Italia, assicura il responsabile delle attività produttive, che oggi ha presieduto a Roma una riunione del Comitato di Emergenza per la crisi del gas. Al termine, Scajola ha fatto sapere che è stata confermata la decisione di aumentare le importazioni da altri paesi. Ha ricordato che la Russia ha dei contratti che deve rispettare e ha spiegato che le nostre scorte ci mettono comunque al riparo dalla crisi. Gli stoccaggi dell'Italia sono consistenti, l'andamento grafico, anche andando a verificare tutte le medie di temperature degli ultimi 40 anni, ci fanno dire che siamo tranquilli e non siamo in emergenza. Abbiamo scorte che possono garantire il sistema per un periodo lungo e quindi più lungo della risoluzione del problema fra Russia e Ucraina, quindi arriverà prima il gas russo dell'esaurimento delle scorte italiane. All'incontro con il ministro hanno partecipato tutti gli operatori del settore. Eni ha fatto sapere che interverrà in favore della Slovenia, che ha esaurito le sue scorte fornendo a condizioni di mercato 200.000 metri cubi di gas al giorno. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un paio di settimane fa, riunendo la cosiddetta OPEC del gas, Vladimir Putin aveva dichiarato che l'era del gas al buon mercato è finita. E gli eventi delle ultime ore fanno parte di questa nuova strategia del Cremlino? E allora tu, Simone, l'hai chiesto, hai girato questa domanda a Cristina Corazza, autrice del libro La guerra del gas, pubblicato dalle edizioni del Sole 24 Ore. Senza dubbio, anche perché uno degli elementi del contendere, che non è certamente il principale, perché il principale è di natura ovviamente geopolitica, è il prezzo. In queste ultime ore, anche in questi ultimi giorni, abbiamo sentito richieste che partivano da $250 a 450, cioè insomma volavano numeri raddoppiati, non raddoppiati, insomma era una sorta di asta. E del resto non solo la Russia ha alzato il prezzo del gas ai paesi consumatori, ma anche importanti produttori come ad esempio i paesi del Caspio hanno iniziato a loro volta ad alzare la posta in gioco e a chiedere prezzi più alti, in particolare a chi? Proprio a Mosca, che è il loro principale acquirente. Quindi questa crisi conferma la diagnosi fatta già in passato da autorevoli analisti, in particolare su Le Monde, che chi ha i giacimenti e i gasdotti in questo momento ha in mano armi micidiali, armi molto potenti, insomma. Il fatto che la Russia interrompa così bruscamente o riduca in maniera così drastica le forniture, che tipo di problema può generare al di là di un problema di approvvigionamento? Dal mio punto di vista è un problema fortemente politico, cioè la Russia ha iniziato con grande intelligenza e grande lungimiranza a utilizzare in modo strategico le sue ricchezze, in particolare il gas, di cui è il primo produttore ma anche il primo sceicco mondiale, e questo le dà una forza immensa. L'Europa è fortemente dipendente dal gas russo. Dal punto di vista tecnico in Italia che cosa succede? Dal punto di vista tecnico succede che l'Italia è dipendente da 4 giganteschi tubi e da una manciata di fornitori. Il più importante di questi fornitori è l'Algeria, che ci rifornisce attraverso un gasdotto che si chiama Transmed e che passa attraverso il Mediterraneo. Il secondo grande fornitore è la Russia, seguito poi dalla Libia, e poi seguono dai giacimenti del Mare del Nord. A noi arriva una parte di risorse importanti attraverso il confine svizzero. Nel momento in cui viene a mancare una parte importante del nostro rifornimento di gas, questo pone dei problemi, forse non nell'immediato, perché nell'immediato abbiamo un eccellente sistema di stoccaggi che peraltro andrebbe incrementato, ampliato, perché rispetto alla crisi di 3 anni fa diciamo non è stato particolarmente ampliato o incrementato, soprattutto per ragioni di impatto ambientale, timori delle popolazioni locali, ma anche per la scarsità di investimenti più in generale. Nel momento in cui viene a mancare un produttore importante, un fornitore importante come la Russia, certo noi possiamo fare giustamente quello che il governo ha deciso di fare, cioè di massimizzare le importazioni dagli altri paesi. Certo è che alla lunga, se questo rubinetto dovesse restare chiuso, non è poco il gas che dobbiamo rimpiazzare. Nel momento nel quale però si succhia via il gas dagli stoccaggi, che cosa succede? È come un palloncino, cioè più gas si preleva e più si svuota lo stoccaggio, tanto più diminuisce la capacità di spinta. Quindi paradossalmente, anche se c'è ancora gas nello stoccaggio, diventa sempre più difficile tirarlo fuori. Però io direi che in questo momento forse è presto per allarmarsi sotto questo profilo. Sicuramente però può essere molto interessante cercare di capire perché a 3 anni di distanza l'Europa si ritrova esattamente nelle stesse condizioni, con forse poche difese in più rispetto a quello che avrebbe potuto fare in questi 3 anni. Gli altri fornitori, che grado di affidabilità c'è su questo fronte? La maggior parte dei contratti che l'Italia ha stipulato con questi paesi sono contratti addirittura trentennali. Quindi teoricamente l'affidabilità è massima. Anche la Russia però ha sempre detto: noi siamo un fornitore affidabile per l'Europa. Il problema è poi che in particolari condizioni alle quali stiamo assistendo, questa affidabilità viene messa perlomeno a dura prova. E questa era Cristina Corazza, autrice del libro La guerra del gas. Un alpinista italiano è morto su una montagna argentina, altri 3 sono bloccati da una tempesta. Seconda notte al gelo per la spedizione di italiani rimasta bloccata martedì a 6.700 metri in cima alla Aconcagua, la vetta più alta d'America, in Argentina. Las víctimas son 4 italianos, aparentemente 2 mujeres, un guía mendocino. Una seconda notte ben più drammatica della precedente, però. Uno di loro, infatti, è morto per il freddo e la disidratazione, così ha riferito il capo della spedizione di soccorso, informato a sua volta dalla guida argentina della spedizione. Il dato lo confermò il commissario generale ritirato. Gli altri 3, un uomo, 2 donne e la guida stessa, sono ormai allo stremo delle forze. Ieri il maltempo ha bloccato i soccorsi, oggi le condizioni sono migliori e le operazioni di recupero sono partite all'alba. È l'intervento più consistente che abbiamo mai organizzato, dice il direttore del Dipartimento Risorse Naturali della provincia di Mendoza, in cui si trova il massiccio della Aconcagua. Contiamo di raggiungere il gruppo entro mezzogiorno, ovvero le 15 in Italia. Sono noti i nomi dei partecipanti alla spedizione, ma al momento non è chiaro quale dei 2 uomini italiani non sia sopravvissuto al ghiaccio andino. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. E proprio poco fa le agenzie hanno battuto la notizia che il capo della squadra di soccorso della polizia locale ha detto: due degli alpinisti sono stati avvistati poco fa da un elicottero. Ieri vi abbiamo raccontato di come il calciatore napoletano Cannavaro si sia scagliato contro il Fingomorra perché, a suo dire, diffonde all'estero un'immagine negativa dell'Italia e abbia detto, tra le altre cose, di essersi sentito chiamare mafioso da un suo compagno di squadra. A Cannavaro oggi risponde il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, intervenuto questa mattina nella trasmissione Viva Voce al microfono di Alessandro Milan. Dà fastidio essere così considerato con questo epiteto, però dipende dalla stupidità dell'interlocutore innanzitutto, dalla disinformazione, e poi c'è sempre il modo per poter far vedere di Napoli delle cose belle. Io porterei quel suo collega calciatore a fare un giro nei dintorni di Napoli e per poi farlo ricredere, ecco, non si può generalizzare, qualsiasi generalizzazione è assurda, insomma. E bisogna accettare ogni tanto queste cose, bisogna contrastarle, però dire di non parlarne è assolutamente sbagliato. Bisogna che ognuno di noi, anche individualmente, affronti il discorso e avrebbe potuto spiegare magari, se ce la faceva, se era informato, anche Fabio Cannavaro, qual è la vera situazione e quanto sia bella Napoli. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Anche oggi Israele sospenderà i bombardamenti sulla striscia di Gaza per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari, ma la tensione sembra spostarsi al confine con Libano, dove è iniziato un lancio di razzi su Israele. Ci sarebbero 5 feriti, ma la responsabilità non sarebbe di Hezbollah. Almeno 70 i voli cancellati stamattina a Fiumicino per la protesta dei lavoratori delle pulizie di bordo e di quelli di carico e scarico bagagli di Alitalia. Temono per il posto di lavoro. Sull'altro fronte, quello del futuro di Malpensa, incontro oggi fra Bossi e Berlusconi, mentre è in corso il cosiddetto Malpensa Day, organizzato dalla provincia di Milano e dai sindacati. Lufthansa ha confermato di non aver fatto alcuna offerta per una quota della compagnia, che quindi domani dovrebbe firmare con Air France KLM. La guerra del gas, Mosca e Kiev stanno trattando, e oggi pomeriggio i vertici della Gazprom, la compagnia russa di Naftogaz, quella ucraina, si incontreranno a Bruxelles. Il ministro dello sviluppo economico, Scajola: prima preoccupiamoci del gas per garantire agli italiani il riscaldamento e imprese l'energia necessaria. Poi ci sarà il rispetto degli contratti. Posso ribadire un concetto fondamentale. Al di là dell'avvertenza, fra la Russia e l'Ucraina, noi abbiamo dei contratti con la Russia e la Russia li deve onorare. Eurolandia in recessione, secondo Eurostat anche nel terzo trimestre del 2008 il PIL dei 15 paesi dell'euro ha registrato un calo dello 0,2%, e a novembre 2008 il tasso di disoccupazione di Eurolandia è salito al 7,8% su base mensile, dati negativi anche per la fiducia delle imprese e consumatori ai minimi dall'85. Un alpinista italiano è morto sull'Aconcagua, la più alta delle vette del Sud America. Dei 3 compagni di cordata, 2 sono stati avvistati poco fa da un elicottero. È attesa per il primo pomeriggio la sentenza nel processo sulla GEA, in cui sono imputati Luciano e Alessandro Moggi e Davide Lippi, figlio del CT della Nazionale. La vicenda è quella di una presunta concorrenza illecita che sarebbe stata esercitata dalla GEA, società che ha gestito le procure di numerosi calciatori di Serie A e B. Nel dicembre del 2008 la fiducia dei consumatori e delle imprese in Europa sono precipitate ai minimi storici, secondo i dati diffusi oggi a Bruxelles. Si tratta del livello più basso dal 1985. Eurostat conferma anche che l'area euro è in recessione tecnica, il PIL è sceso per il terzo trimestre consecutivo e ci sono dati negativi anche sul fronte della disoccupazione, che raggiunge il livello del 7,8%. E a proposito di occupazione, la cassa integrazione è un ottimo indicatore della crisi. Ieri l'INPS ha comunicato il consuntivo di dicembre 2008, che ha registrato un'impennata della cassa integrazione ordinaria, cioè quella che serve alle imprese per affrontare le crisi congiunturali, più 5 più 526% nell'industria rispetto allo stesso mese del 2007. In compenso però la cassa straordinaria, quella che spesso è l'anticamera dei licenziamenti, ha registrato una flessione del 12%. E infatti, secondo il ministro del welfare Sacconi, il segnale fotografa la difficoltà delle imprese, ma anche il fatto che non sono in atto ridimensionamenti strutturali, ossia non ci sono i prodromi dei licenziamenti. Oggi vediamo la situazione a Torino, dove il settore meccanico è cruciale, dove la Fiat ieri ha comunicato la richiesta di cassa anche per 2.000 impiegati per le due prime settimane di febbraio. A Torino i dati sulla cassa integrazione fotografano la malattia del settore meccanico del paese. Aziende con buona capacità di export, già temprate da anni difficili, che oggi fanno i conti con il crollo della domanda mondiale nel settore auto, ma non solo. I dati FIOM dicono che sotto la mole nei primi sei mesi del 2008 le aziende interessate dalla cassa ordinaria sono state 71. Da luglio a dicembre sono diventate 556, di cui 279 solo nell'ultimo mese. E i lavoratori coinvolti, da 1.644 nei primi sei mesi dello scorso anno, sono passati a 37.729 nel secondo semestre, di cui 23.847 a dicembre. Il segretario della FIOM di Torino, Giorgio Airaudo. Da Torino si fornisce non solo Fiat, ma si forniscono anche altri grandi produttori europei come Peugeot, Renault, Volkswagen, Audi, e quindi la fermata di tutti questi produttori ha ovviamente aumentato la cassa di dicembre e di gennaio, perché gennaio sarà uguale a dicembre, e sappiamo già che anche febbraio sarà un mese in cui la cassa andrà in molte fabbriche da 2-3 settimane. Anche il direttore dell'Unione Industriale di Torino, Giuseppe Gherzi, non nasconde la preoccupazione. Noi siamo passati ovviamente a circa oltre 200 aziende che hanno ricorso alla cassa integrazione ordinaria, con circa 20.000 lavoratori sospesi nel mese di dicembre. Anche da queste parti, tuttavia, i dati sulla CIG straordinaria sono in calo e le letture divergono. Airaudo teme una crisi strutturale, un prossimo passaggio dalla cassa ordinaria alla straordinaria, e chiede un'estensione degli ammortizzatori e il sostegno alle imprese, in particolare al settore auto. Gherzi punta sul superamento della fase critica. La priorità in assoluto è il mantenimento e l'aumento della liquidità nei prossimi mesi. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora Giulia Crivelli, buongiorno Giulia, parliamo di saldi innanzitutto, perché insomma in qualche modo è un argomento in qualche modo collegato alla crisi. Sì, ieri sono iniziati in Francia, e mentre in Spagna erano iniziati già il 2 gennaio, in Inghilterra sappiamo c'è stata la corsa ad anticiparli. Il bilancio è positivo un po' in tutta Europa, tranne che in Inghilterra, dove la crisi finanziaria ha colpito più pesantemente, asciugando portafogli e probabilmente anche conti in banca, e ovviamente se si vende con percentuali superiori al 50%, i margini per chi vende sono quasi nulli, quindi l'unico vantaggio è di svuotare i magazzini, ma è già un vantaggio. E comunque questa dimostrazione, di scrive il Wall Street Journal, di voler spendere, quindi di non avere così tanta paura della crisi da tirare, da risparmiare anche quando si avrebbero soldi da spendere, è un segnale di fiducia, e forse è proprio da questi saldi così di successo in tutta Europa che può un po' ripartire il ciclo economico, se non altro quello legato all'abbigliamento, che comunque è importante in tutta Europa, in particolare in Italia naturalmente. Si parla ancora di crisi del gas, inevitabilmente, prima ne abbiamo parlato a lungo, ma se ne parla anche sui giornali stranieri. Sì, anche un paese come la Gran Bretagna, che ha comunque forti risorse proprie, più i giacimenti del Mare del Nord di petrolio, però comincia a essere preoccupato. Il Guardian oggi ha un pezzo in prima pagina dove si spiega come la crisi del gas, quella che viene chiamata poi la disputa del gas, perché appunto viene vista come una cosa che per ora riguarda l'Europa continentale, però non si esclude che possa coinvolgere anche la Gran Bretagna, facendo alzare i prezzi dell'energia, e comunque quindi del gas e dell'energia. Poi c'è tutto un approfondimento sulla questione tra l'Ucraina e la Russia, perché naturalmente lì l'interesse è anche geopolitico, ed è una naturalmente una zona così calda, quella della Russia e delle ex Unioni Sovietiche, che allora a quel punto l'allarme diventa appunto per un eventuale scenario politico più grave, o come abbiamo visto quest'estate per risvolti addirittura più pericolosi, come dei focolai di guerra. Giulia, tra poco torneremo a parlarne, perché ci sono polemiche su come è stata gestita la questione situazione neve a Milano, e però se ne parla anche sui quotidiani stranieri e anche su quotidiani insospettabili forse. Sì, devo dire il Financial Times la vede proprio più che altro come una bellissima immagine, cioè in prima pagina una foto di una strada di Milano che non riesco a riconoscere, potrebbe essere di fatto qualsiasi, piena alberata, e il titolo è Big Chill, quindi il grande freddo, la nevicata a Milano, in realtà viene appunto visto come semplicemente una foto molto insolita. Poi loro non si occupano direttamente di delle polemiche che ha suscitato la reazione del comune di Milano, che praticamente non c'è stata la nevicata, e però appunto non la vedono semplicemente come un'immagine invernale molto bella. Grazie Giulia, torneremo come dicevamo prima a parlare delle polemiche sull'emergenza neve a Milano fra pochissimo, dopo la viabilità delle 13:45, ma ora torniamo in Medio Oriente con due storie. Come vi abbiamo raccontato spesso in questi giorni, la Striscia di Gaza è di fatto chiusa ai giornalisti, allora molte informazioni si prendono e si cercano dai blog. Uno di questi è tenuto da Marcelo Jodolosenko, spero di aver pronunciato bene il nome. Jodolosenko forse. Forse sì. Un blogger israeliano che comunica attraverso internet con un amico palestinese. Questo è il suo racconto della guerra vista da Sderot. Hay gente que durante todo este tiempo estuvo muy, c'è gente che in tutti questi anni ha vissuto con ansia, nerviosa, gente che è scappata da Sderot. Poi ci siamo noi che abbiamo deciso di rimanere qui. Io insegno spagnolo in una scuola regionale di Sderot e la situazione è preoccupante. Qui c'è tutta una generazione di bambini che pensa che la vita sia questo. Lo pensano i bambini israeliani di Sderot e i palestinesi di Gaza. Capisci che non è facile avere un'opinione netta su questa storia. Da una parte c'è il fatto che ogni vita che si salva è un mondo intero che si salva. Dunque, quanto accaduto adesso a Gaza è terribile. Però io mi domando, perché Hamas ha bombardato? Perché? Quale ragione aveva? E ora è dunque corretto che Israele si difenda? Qualsiasi paese ha il diritto di difendersi. E qui però c'è il secondo punto, perché io credo che la risposta israeliana sia stata esagerata, e questo l'ho già detto. Però è anche vero che i militari di Hamas si nascondono nelle case, nelle scuole. Guarda, io non ho mai visto un esercito così meschino, immorale come Hamas. Dunque è difficile prendere una posizione netta. Resta il fatto che nessuno di noi, né israeliani né palestinesi, può continuare a vivere in questo modo. In questi anni sono morte troppe persone. La situazione non è facile. Non è facile scegliere dove stare, se da una parte o dall'altra. Non è facile decidersi per un lato o per l'altro. Ma su internet non ci sono solo i blog sulla guerra, ci sono anche i videogiochi che rappresentano il conflitto. I forum su internet si sono infiammati. Sono tanti i videogiochi che imitano la guerra vera, ma cosa pensare quando un gioco apparso online mette in scena il conflitto a Gaza? Si trova sul sito Newgrounds e si chiama Raid Gaza. L'autore del gioco esprime piuttosto chiaramente la sua opinione sul conflitto. Il giocatore è il comandante delle forze di difesa israeliane ed è chiamato a rispondere a un attacco di razzi di Hamas sulla città di Sderot. Il giocatore ha a disposizione esercito, carri armati, elicotteri, aerei e un aiuto finanziario dagli Stati Uniti. Le forze palestinesi possono lanciare un misero Qassam ogni 5 o 6 secondi. Scopo del gioco non è quello di vincere, il che sarebbe scontato, ma di mantenere il più alto possibile il rapporto tra vittime palestinesi e israeliane. Alla fine del gioco appare l'immagine del primo ministro israeliano Ehud Olmert e un aggiornamento sul bilancio reale delle vittime nella Striscia di Gaza. Proteste della comunità di giocatori, come è accaduto anche qualche giorno fa su Second Life. La comunità virtuale non è più in voga come l'anno scorso, ma è sempre frequentata. Manifestazioni di avatar sono state organizzate negli ultimi giorni nella nazione virtuale di Israele. I creatori della versione Second Life del paese dichiarano: nessuno ha voluto mettersi a discutere pacatamente. I manifestanti urlavano solo insulti e oscenità. Lo stato virtuale di Israele è stato momentaneamente chiuso agli stranieri, virtuali anch'essi. Marta Cagnola, GR24, il Sole 24 Ore. Sono le 13:46, questo è il GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Il piano egiziano non è in grado di risolvere la crisi di Gaza, questa è la dichiarazione poco fa, un flash di agenzia di un esponente di Hamas. E da Libano questa mattina c'è stato un lancio di razzi sul territorio ebraico, ci sarebbero 5 feriti, ma stando a tutte le fonti, il governo israeliano compreso, la responsabilità non sarebbe di Hezbollah. Sentiamo il colonnello Giovanni Martina della missione dei Caschi Blu nel sud del Libano. Unifil può confermare che almeno 3 razzi sono stati sparati su Israele. Non è stata rivendicata la paternità, la responsabilità per questo atto finora. Abbiamo aumentato le nostre attività operative per far fronte chiaramente alla situazione, ma abbiamo già in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare gli avvenimenti. È chiaro che reagiamo alla contingenza, ma comunque non c'è nessun allarmismo. 70 voli cancellati a Fiumicino, prevalentemente voli internazionali, per la protesta dei lavoratori di Alitalia, delle pulizie di bordo, del carico e scarico di bagagli, che temono per il posto di lavoro. Sull'altro fronte, quello del futuro di Malpensa, incontro oggi tra Bossi e Berlusconi, mentre in corso il Malpensa Day organizzato da provincia e sindacati. Il presidente della provincia, Filippo Penati. Qui si gioca un pezzo di PIL importante del nostro paese. Non è possibile che le scelte vengano fatte per proteggere il piccolo monopolista che è CAI. La nuova Alitalia faccia le sue scelte, questo territorio sia libero di poter scegliere le compagnie aeree, di far arrivare qui le compagnie aeree, gli aerei qui possano decollare, ripartire, atterrare, collegando Milano, la Lombardia, il nord del paese a tutto il resto del mondo. La guerra del gas, Mosca e Kiev stanno trattando in corso l'incontro fra i vertici di Gazprom, la compagnia russa, e quelli di Naftogaz, quella ucraina. Se c'è l'ok di Mosca, serviranno 36 ore per riattivare il flusso. Eurolandia è in recessione. Secondo Eurostat, anche nel terzo trimestre del 2008, il PIL dei 15 paesi dell'euro ha registrato un calo dello 0,2%. A novembre 2008 il tasso di disoccupazione di Eurolandia è salito al 7,8% su base mensile. Dati negativi anche per la fiducia di imprese e consumatori, ai minimi dal 1980. Avvistati in tarda mattinata 2 dei 3 alpinisti italiani dispersi sulle Ande, lo ricordiamo, uno di loro è morto. Sulla vetta più alta c'è una temperatura che raggiunge i 20 gradi sotto zero. È attesa per il primo pomeriggio la sentenza nel processo sulla GEA, in cui sono imputati Luciano e Alessandro Moggi e Davide Lippi, figlio del CT della Nazionale. La vicenda è quella di una presunta concorrenza illecita che sarebbe stata esercitata dalla GEA, società che ha gestito le procure di numerosi calciatori di serie A e B. Si sta attenuando l'ondata di maltempo che ha investito nelle ultime ore le regioni del nord, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. Il capo della Protezione Civile Guido Bertolaso torna comunque a rivolgere un appello agli automobilisti affinché guidino con prudenza, soprattutto nelle prossime ore, quando il rischio ghiaccio si farà più consistente per il calo delle temperature. Nevica oggi a Venezia, mentre Milano e Torino la pioggia sta sciogliendo la neve che si era accumulata, e allora ci colleghiamo con Torino. Marco Ferrando, come vanno le cose? Buongiorno da Torino. Qui ormai da quasi 24 ore, lo dicevate anche da studio, la neve è diventata pioggia, dunque l'acqua sta un poco alla volta cancellando anche i disagi creati nelle ultime ore. Sui margini delle carreggiate infatti rimane ancora qualche mucchio di neve, ma per la circolazione non ci sono problemi. Smentite dunque le previsioni che in città avevano previsto neve fino a questa sera. Ma ora, finita la nevicata, che è stata la nevicata più imponente degli ultimi 20 anni, è l'ora di qualche polemica. Di fatto ieri la città qui Torino non si è paralizzata, ma oggi il dito è puntato sia tra i politici che tra la gente sul servizio di sgombero delle strade, soprattutto dei marciapiedi, sui taxi ieri che sembravano svaniti, e soprattutto sulla scelta martedì sera di lasciare aperte le scuole. Infatti oggi che piove, tutti a casa, scuole chiuse, mentre ieri le scuole erano aperte mentre fuori nevicava. Fuori città invece da questa mattina è riaperto ed è tutto regolare all'aeroporto di Torino Caselle, mentre anche le autostrade sono state riaperte anche ai mezzi pesanti. Dunque tutto bene, pioggia fino a questa sera, domani invece è previsto sereno e forse la nebbia. Per ora è tutto, linea allo studio. Grazie Marco Ferrando. Avete dunque sentito polemiche per come è stata gestita l'emergenza anche a Torino. Quelle più violente, potremmo dire, già dalle primissime ore di ieri ci sono state a Milano. Oggi qui la situazione è tranquilla perché la pioggia sta sciogliendo i cumuli di neve. E allora sentiamo come si sono sviluppate queste polemiche su come è stata gestita l'emergenza neve. A Milano, nei giorni di nevicata intensa, è mancato il sale per il disgelo, lo ha ammesso il sindaco Letizia Moratti. Abbiamo dei problemi di sale che si sono creati perché ci sono state 4 fenomeni che hanno creato una criticità, e sono stati le sequenze delle nevicate, che sono state molto rapide, dopo giorni di festa, quindi più difficile l'approvvigionamento, difficoltà di rifornimento dall'esterno, e il fatto che Milano ha dato ad altre città sale quando altre città ne hanno avuto bisogno. per esempio l'abbiamo dato a Torino e quindi abbiamo diminuito le nostre scorte. Ribatte a queste dichiarazioni Francesco Valerio, il presidente di Atisale, che approvvigiona il comune di Milano del prezioso cloruro di sodio che, se applicato nelle prime ore di una nevicata, impedisce la formazione di ghiaccio. A noi la richiesta di sale da Milano è arrivata solo martedì 6 gennaio, non prima, ha dichiarato al quotidiano La Stampa. Di sale ne abbiamo quanto vogliamo, nella salina di Margherita di Savoia sono stoccate 500 tonnellate, siamo pronti per ogni emergenza. E l'emergenza è stata affrontata, dichiara sempre il presidente di Atisale. Dopo la richiesta del comune abbiamo attrezzato 100 camion con le prime tonnellate. Tonnellate che, come sappiamo, non sono arrivate in tempo. Eppure è facile programmare gli approvvigionamenti. Ad Atitalia, ad esempio, gli ordini della Germania arrivano a settembre. Autostrade per l'Italia riempie con anticipo i suoi magazzini con scorte che vanno dalle 90 alle 150 tonnellate l'anno. A Milano invece questo non succede, forse perché, come ci suggerisce un responsabile vendite del settore, i costi per la gestione dei magazzini sono giudicati eccessivi. Ma quanto costa una città bloccata per un giorno? Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Con il freddo aumenta il rischio influenza. Nicoletta Carbone ne ha parlato in Essere Benessere con il virologo Fabrizio Pregliasco. Sentiamo. Le previsioni, l'influenza le sta rispettando perché è un virus sempre molto variabile, ma quest'anno purtroppo per certi versi sta crescendo con tranquillità, a creare però una stagione che vediamo solo agli inizi, nel senso che fino ad ora abbiamo avuto soprattutto forme simili influenzali, raffreddori, naso chiuso e quant'altro, ma Befana e adesso le scuole che riaprono un po' in parte, perché almeno nel nord Italia molte sono ancora chiuse, quindi i prossimi giorni sono ancora a rischio per un ulteriore incremento dell'influenza. Quindi il picco massimo è quando si verificherà? Tra pochi giorni, una settimana? Pensiamo una o due settimane, ma la cosa, tutta l'influenza, la stagione influenzale ci terrà compagnia per tutto il mese di gennaio e una parte del mese di febbraio, con una curva incremento e poi a decrescere, quindi non è istantaneo l'effetto, no? Non è un'epidemia diciamo che si diffonde in poche ore, in pochi giorni, ma su 4-6 settimane. L'immagine all'estero del sistema Italia nel settore del turismo e in quello del commercio. Questo è l'obiettivo di un protocollo firmato oggi a Palazzo Chigi. Fare del turismo il primo marchio del Made in Italy, e questo è l'obiettivo comune dei sottosegretari al turismo e allo sviluppo economico Vittoria Brambilla e Adolfo Urso. Oggi a Palazzo Chigi è stato firmato l'accordo tra i due settori per attrarre la domanda turistica dei paesi emergenti e dare sostegno alle imprese italiane che guardano all'internazionalizzazione. Rispondendo alle domande dei giornalisti circa una sua prossima nomina a capo di un dicastero ad hoc, l'onorevole Brambilla ha risposto indirettamente. Questo governo intende puntare molto sull'industria del turismo proprio perché è convinto che può e deve rappresentare il volano per la nostra economia. L'Italia è un paese essenzialmente a vocazione turistica, questa è la nostra grande risorsa. E intanto arriva una buona notizia. Complici le grandi nevicate, i primi dati sull'andamento della stagione invernale hanno superato le aspettative. Paola Cavadi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torniamo a parlare di Alitalia, perché dovrebbe essere più o meno iniziato il famoso incontro tra Berlusconi e Bossi, che dovrebbe essere il chiarimento tra i due alleati. Vincenzo Miglietta, aggiornamenti da Palazzo Grazioli? Sì, di nuovo buongiorno. Nessun commento all'arrivo poco fa dei partecipanti alla colazione di lavoro sul futuro di Malpensa e proprio dello scalo lombardo, che si sta parlando in questi minuti del suo futuro anche dopo quella che è ormai un'intesa certa tra la nuova Alitalia ed Air France. Non è stato mai un mistero che i transalpini puntino come hub principale sullo scalo romano di Fiumicino. Da qui la forte opposizione della Lega e degli amministratori locali all'accordo. Ora la partita si gioca sugli slot, ossia sui margini di competitività e concorrenza che la nuova Alitalia lascerà alle altre compagnie a Malpensa. Pensa dai vertici di CAI, con la Nina e Sabelli sarebbero però arrivate garanzie sugli impegni in tal senso ed anche sul ritorno di importanti rotte di Alitalia proprio a Malpensa. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Parliamo ora di figurine. Chi nella vita non ha fatto la raccolta panini dei calciatori? Io no, perché francamente francamente sono talmente disordinato che non riuscirò mai, diciamo, ad arrivare a completamento. Però stamattina a Roma è stato presentato l'album 2008-2009. Paola Nania, buongiorno. buongiorno a voi. Era il 1961 quando il primo album Panini di calciatori è arrivato in edicola. Sono passati 48 anni e l'interesse di appassionati e collezionisti sembra sempre lo stesso, addirittura cresciuto. Sono 128 pagine presentate, come dicevate, qui a Roma, 684 figurine, innovativo nella sua continuità, spiegano dalla Panini. Tra le novità, tutta una serie di informazioni aggiuntive sui calciatori, come il numero di maglie e trofei vinti in carriera. Non solo, poco fa il direttore commerciale Italia della Panini, Antonio Allegra, ha dato un annuncio a sorpresa che farà certamente piacere agli appassionati. Sentiamolo. Diciamo che noi ogni anno aggiorniamo l'album con il calciomercato di gennaio, quindi già da qualche anno abbiamo inserito delle sezioni per ogni squadra con i nuovi acquisti. Diciamo che quest'anno c'è un giocatore che in qualche maniera sta attraendo i media su questa attività ed è David Beckham. Oggi faremo vedere in anteprima il bozzetto della figurina di Beckham che verrà poi inviata ai collezionisti. E da Roma per ora è tutto. Grazie Paola Anania. Un'ultima notizia prima di chiudere. Di poco fa l'Aula della Camera ha definitivamente approvato il decreto legge sull'università. Voti a favore 281, 196 i contrari, 28 gli astenuti. Ecco il riepilogo delle principali notizie della giornata. Hamas respinge il piano franco-egiziano, non è sufficiente. Intanto arrivano razzi dal Libano su Israele, almeno 5 feriti, ma a quanto pare non è stata Hezbollah. 70 i voli cancellati questa mattina a Fiumicino per una protesta del personale delle pulizie di Alitalia. Per quanto riguarda Malpensa, il giorno del chiarimento fra Bossi e Berlusconi. Cresce la disoccupazione in Europa, arriva al 7,8%, fiducia di imprese e consumatori ai minimi da 24 anni. Sono stati avvistati due degli alpinisti italiani bloccati oltre i 6.000 metri sulle Ande, erano in quattro, uno di loro è morto. Nessuna ghiacciata, al nord si circola quasi regolarmente, ma è ancora polemica sulla gestione della nevicata a Milano, il sale è stato ordinato troppo tardi. La guerra del gas. Mosca e Kiev stanno trattando i vertici delle aziende. Ucraina e Russia si sono incontrati a Bruxelles. Scajola ha detto Mosca onori contratti. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Pietro Lacorte. Come sempre vi ricordiamo, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. per ascoltare la puntata www.radio24.it. Il prossimo giornale radio alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.